569. Biscotti croccanti seconda maniera. Farina grammi 400, zucchero grammi 200, burro grammi 80, mandorle grammi 40, uva sultanina grammi 30, pinoli grammi 20, cedro o zucca candita grammi 20, anaci un pizzico, spirito di vino cucchiaiate numero 2, bicarbonato di soda, un cucchiaino scarso, uova uno intero e tre rossi. Questi biscotti sono più fini dei precedenti e ritengo non lasciano nulla a desiderare. Li mandorle sbucciatele, e tanto queste che i pinoli lasciateli interi. Il candito tagliatelo a pezzettini, fate una buca nel monte della farina e collocateci le uova, lo zucchero, il burro, lo spirito e il bicarbonato. Intridete il composto senza troppo lavorarlo, poi apritelo ed allargatelo per aggiungervi il resto e tirate un bastone alquanto compresso lungo un metro che dividerete in 4-5 parti onde possa entrare nella teglia. Doratelo e cuocetelo al forno. Cotto che sia, tagliatelo nella forma dei biscotti a fette poco più grosse di un centimetro e tostateli leggermente da ambo le parti. 570. Bastoncelli croccanti. Farina grammi 150, burro grammi 60, zucchero a velo grammi 60, un uovo. Odore di buccia di limone grattata. Fatene un pastone senza dimenarlo troppo. Poi tiratelo sottile per poter ottenere 2 dozzine di bastoncelli della lunghezza di 10 centimetri che cuocerete al forno da campagna entro una teglia senza alcuna preparazione. Si possono accompagnare con tè o col vino da bottiglia.